X24, i gialli della storia. Ed era un pomeriggio di domenica, quei pomeriggi un po' asfittici, silenziosi, giorno di riposo in una città di provincia. Alle 9:05 è arrivata quella buona. A me personalmente mi prende lo stomaco, i viscini, no? Una cosa che ti... e mi blocca, non scappo, mi blocca. Ho cominciato a vedere le pareti oscillare, ma si vedeva tutti i tetti che erano visibili, che venivano frantumati, sembrava ripetizione, come colpi di maglio che andavano in ripetizione, una catastrofe. Messina e Reggio Calabria, 28 dicembre 1908, Irpinia, 23 novembre 1980, Friuli, 6 maggio 1976, L'Aquila, 6 aprile 2009. Quattro luoghi, quattro momenti storici diversi, ma una sola esperienza: il terremoto. Un fenomeno naturale ma imprevedibile, una catastrofe che arriva dal silenzio e riduce tutto al silenzio, persone, animali, cose. Nella puntata di Mix24 proveremo a capire quali storie, quali tragedie, quali speranze hanno vissuto gli abitanti di quei luoghi. Ascolteremo le testimonianze di chi ha vissuto quella terribile esperienza e ha perso tutto e ha avuto la forza di ricominciare. 6 maggio dell'estate sera è stata una giornata molto molto calda, molto strano per la zona, un caldo veramente eccessivo. E qualcuno mi aveva detto quel giorno, non ricordo chi, tempo di terremoto. Io non avevo mai sentito una scossa. E la sera, con mio marito dopo cena, io abitavo in centro storico, siamo scesi verso la parte bassa di Gemona, vicino alla stazione dove avevamo degli amici. E siamo arrivati in casa di questi amici, avevano due bambine che erano già a letto. E abbiamo trovato solo la mia amica, il marito era andato a trovare a sua volta altri amici. Stava stirando, così si parlava, e parte la prima scossa. Lei mette giù il ferro da stiro, si mette in ginocchio e dice: signor Dutman, al terremoto. Alle 5:20 la terra ha il moto sussultorio e il moto ondulatorio, quindi prima sradica e poi abbatte, e poi c'è quello che ora si chiamerebbe lo tsunami. Tre ondate gigantesche che si susseguono, scardinano il laviglio che c'è alla fonda. Le navi urtano l'una addosso all'altra e si fanno male. Un ferry boat viene balzato per aria, tocca il molo, poi la seconda ondata lo rimette in mare. Soprattutto si portano via i pochi o molti, ora non glielo so dire, che avevano cercato salvezza sul molo, anche perché il molo non era grande, non era largo, quindi quelli che ad esempio stavano nella palazzata, il primo rifugio dove hanno cercato? Lontano dal pericolo dei crolli sul molo. Il mare rigurgitò di cadaveri. Alla prima scossa del terremoto crollò il pavimento, andammo a finire al primo piano. È lì che trovò la morte mia madre, un fratello e una sorella. Io mi salvai perché andai a finire sotto una tavola di pranzo e mi fece sostegno al materiale che doveva venirmi sopra. Rimase per 15 giorni sotto. Dopo 15 giorni sono stato salvato dai pompieri di Napoli. A un certo punto mio padre uscì. Nelle strade c'erano già tante donne che piangevano. Imploravano aiuto perché scavassimo i loro cari rimasti schiacciati. Noi guardavamo verso Messina, ma Messina non c'era più. La prima cosa che uno prova è la paura. Cioè, hai paura di morire. Io poi in particolare lavoravo in questa piccola redazione di cronache di Potenza. E quando ho visto che le mura si aprivano, mi sono precipitato per la strada, ho aperto il portoncino e lì ho avuto paura di morire, perché davanti a me è crollata una casa, ha sepolto una macchina, mi ricordo che era una Giulia Verde, si sono accesi i fari. E io in quel momento sono tornato un po' indietro, di qualche passo ho appannato il portoncino e mi sono fatto la croce. Una boate tremenda, una boate come se addirittura fosse scoppiasse una bomba. Una si è pensato in attentato, così. Tale il cadute le linee telefoniche, caduta la luce, l'acqua, non avevamo che recarci nei luoghi per vedere chi era vivo e chi era morto. E io mi ricordo il brivido provato quando, arrivando a Sant'Angelo, non c'era più niente. Tutti morti, gli amici d'infanzia, i bambini e i medici dell'ospedale, i parenti, i conoscenti, cambia tutto. Cambia tutto, peggio di un bombardamento. La terra che si scuote, i crolli, le urla, poi il buio e il silenzio. Un silenzio innaturale e terribile, ma poi le invocazioni e le richieste di aiuto che salgono dalle macerie. Non è la distruzione di case, scuole, paesi che suscita più sgomento, è scoprire morti. Balvano, ore 23. Siamo all'interno della chiesa della parrocchia di Santa Maria Assunta, nel centro storico. Siamo entrati da pochi minuti. All'interno ci sono i corpi di decine e decine di persone. Altri corpi sono sotto le macerie. I vigili del fuoco, coadiuvati dai volontari del luogo, stanno scavando per trovare ancora qualche ferito, ma le speranze sono sempre più esili. I bambini c'erano in chiesa in quel momento. Da una cinquantina in su, minimo, una cinquantina, i più piccoli di 3-4 anni, i più grandi 14-15 anni. Io non so io stesso come sono salvo, è un miracolo. La disgrazia ha voluto che è crollato dalla parte dell'uscita, quindi la gente mentre usciva è rimasta sotto le macerie. Siamo rimasti sotto le macerie. Io guardi, non proprio non ce la faccio più, ecco. Non è tanto per me, per la gamba, cosa vuole che sia la gamba. Ma vivere auguri. Vivere 36 anni, erano ieri che erano 36 anni che ero sposato. Quanti siano, 400, 500, non sappiamo. Possono arrivare anche a 800. Da quanto tempo siete qui? Io? Beh, tutta la notte non sono andato a dormire, dalle 9 di sera non sempre stato. E lei quando ha avuto notizie della scossa aveva telefonato a sua figlia? No, siccome mi è successo che anche la mia casa è diroccata, no? Cioè, parzialmente diroccata, allora sono precipitato subito a vedere di mia figlia, mio genero e di nipotini. Ed è sicuro che non siano riusciti a mettersi in salvo? Penso di no, perché guardi, è al secondo piano, no? Abbiamo appena appena l'ultimo piano che sta sgombrando, dunque lo spazio è così piccolo che penso sia assolutamente possibile che siano ancora lì. Ma per chi non vive personalmente l'esperienza del terremoto, l'esperienza più terribile è non sapere che cosa sia successo ai propri cari, agli amici di una vita. E chi invece il terremoto lo vive si sente improvvisamente isolato, non sa che cosa sanno gli altri, quelli che il terremoto non l'hanno vissuto e che ora potrebbero venire in soccorso. Al dramma, alla catastrofe si unisce l'angoscia delle informazioni sommarie, informazioni spesso preziosissime per salvare una vita. Telefonai all'Alitalia per prenotare un volo di rientro in Friuli. Era già pieno il volo di linea, però stavano allestendo un volo speciale. Ci imbarcammo, finalmente si mosse questo aereo, se non che poi sulla pista venne fermato di nuovo. E la gente tumultuava perché era gente scioccata sull'aereo, perché non sapeva le condizioni qui avrebbe trovato parenti che avevano in Friuli. E il comandante allora, per calmare la gente, disse: guardate che dobbiamo aspettare un carico di plasma per il Friuli, il che francamente mi fece rizzare i capelli. Come in Friuli plasma, se siamo i primi in Italia per donazione di sangue? ogni famiglia nostra è donatore di sangue. No, no, no, com'è possibile? Cosa è successo? Sono Elisa Ranni, da Pescopagano, c'è mia figlia a Roma, mestre, i miei cognati, tutti i parenti a Padova, mia sorella, stiamo bene, però non sappiamo niente della casa e niente di niente. Il primo impatto di chi vive questa tragedia, salvare se stesso, aiutare gli altri più vicini e poi capire i propri cari dove sono, sono vivi, sono morti, sono sprofondati pure loro, sono travolti dalle macerie. La signora Prisco, in Potenza, e per la signorina Naborre, in Napoli, abitante in via Roma, comunichiamo che il resto della famiglia è salva. C'hanno figli che indinano, proprio al prenderlo, vogliamo dire che stanno tutti bene, un altro a Roma, alla Cicchignola. All'alba del 24 novembre incominciamo a sentir dire dalla radio che anche l'Irpinia, Sant'Angelo dei Lombardi, era uno dei centri più colpiti dal terremoto. Solo nella tarda serata del 28 alcuni giornali intitolano Messina è morta. Il numero dei morti fu fin dall'inizio calcolato in 80.000, anche se un censimento esatto non c'è. L'area del cratere è l'area dei comuni del disastro, dove non s'era salvato niente, rasi al suolo. E l'area a cavallo tra l'Irpinia e la Basilicata e un pezzettino del Cilento, 3.000 morti e paesi rasi al suolo. Terremoto in Friuli. La terra trema alle 9 della sera. Il sisma colpisce la zona pedemontana, 137 comuni. Interessa un'area di quasi 6.000 km quadrati e una popolazione di 600.000 abitanti. 1.000 i morti, 3.033 i feriti, 100.000 i senza tetto. Ma il terremoto non si limita a uccidere, a distruggere chi è scampato ai crolli e tagliato fuori dal mondo. Le vie di comunicazione sono fuori uso e sembra impossibile portare aiuto e soccorsi, a volte con colpevole superficialità. Eppure i volontari accorrono da tutta la penisola in una gara di solidarietà che non si ferma di fronte a nessun ostacolo. Alle 8 del mattino, dall'Austria, era già arrivato il pane e il latte, perché avevano avuto notizie tramite i CB, le radio, Noi eravamo gemellati già allora con Felden, paese sul lago Wörthersee, e tutta la notte hanno panificato e hanno portato il pane là al mattino alle 8-9. Siamo della San Marco Sud di Trani e abbiamo fatto subito una colletta urgentemente di tutte le operate da San Marco Sud da Trani. Passata la prima fase della paura, che era stata terribile, è scattata la solidarietà. Ecco, noi in quel momento abbiamo vissuto una grande idea di solidarietà. Il Friuli abbia avuto un aiuto enorme, penso da tutto il mondo. Si è sempre detto che i soccorsi vennero da fuori, e in particolare dai russi, cosa verissima. Alle ore 8 del giorno 28, i tre incrociatori russi partivano in soccorso dal porto di Augusta. C'è un'etica del soccorso che la marineria russa esercitò con uno slancio straordinario. I primi soccorsi giunsero addirittura disarmati, nel senso che vennero senza pale, senza ruspe, senza mezzi, senza attrezzature. Fino a quel momento arrivavano i nostri emigrati dalla Svizzera, dalla Germania, che non avendo notizie dei propri figli, erano tutti nella notte e l'indomani mattina tornati qui a cercare i loro affetti. Ma soccorsi non ne avevamo visto. Troppi sono morti perché nessuno li ha scavati. Erano che deve mettere i piedi a terra, che quando manda una cosa fa una disposizione, parte e deve arrivare a quella zona, non che si fermano, devono arrivare, deve finire questa cuccagna che si ferma tutto. Pagina memorabile di Pertini che atterra in elicottero a Balvano, il paese più disastrato da terremoto dell'80 della provincia di Potenza, e di fronte ai cittadini che lo accolgono muti dice delle parole veementi. Sono presidente, cosa vuole dire? Cosa vuole dire? Le parole suonano vana retorica, è un disastro. E lui proprio vicino a una casa di Balvano, poco lontano dalla chiesa, emise questo famoso grido di dolore, perché disse: vergognatevi, non sono ancora arrivati i soccorsi. L'arrivo di Pertini segnò la svolta nell'arrivo dei soccorsi. Ci sono state delle mancanze gravi, non vi è dubbio, e quindi chi ha mancato deve essere colpito, come è stato colpito il prefetto di Avellino, che è stato rimosso giustamente. Non possiamo nascondere che se i mezzi, gli stessi mezzi, giunti dopo 5 giorni, fossero arrivati in anticipo con qualche giorno prima, probabilmente avremmo avuto delle persone in più da salvare. Però l'aiuto più grande l'abbiamo avuto dai soldati. I soldati portavano tende che erano più robuste delle tende da camping con quel cielo notturno. Noi eravamo 3-4 gradi sotto zero in quelle notti. I soldati credo che si sono affezionati a noi, sono stati molto molto vicini in quei momenti. Noi, tutti i soldati del 57 vogliono essere più vicini e offriranno a questo paese un'aula. A te ti do il fazzoletto del battaglione. Ma il tempo della solidarietà prima o poi passa, e allora viene il momento di organizzarsi, anche se le ferite dell'anima non si rimargineranno mai. La vita deve riprendere il suo corso. Siamo arrivati a Artegna e mi fu chiesto di organizzare il campo base, dove veniva raccolto tutto il materiale che arrivava da ogni dove, bisognava distribuirlo nelle famiglie. Dove arrivavano tutti i volontari, noi abbiamo fatto il primo coordinamento dei volontari. Noi abbiamo creato un punto dove arrivavano i bisogni della gente e dove noi poi trasmettevamo ai volontari dicendo: andate in quella famiglia, con queste gli davamo il badile, il piccone, quello che occorreva, e andate a lavorare là. E poi abbiamo detto: e al campo base facciamo il raccordo tra tutti questi campi. Ma voi chiedete la collaborazione attiva dei militari? Le prime ore che io ho messo piede in questo campo base ho avuto la soddisfazione di vedere 20 militari con un tenente che si sono messi completamente a mia disposizione. Noi abbiamo detto che cercheremo di riparare le case riparabili entro breve tempo. Poi si passerà alla costruzione di baracche temporanee, perché noi vogliamo le case chiaramente ricostruite nella zona. Abbiamo cominciato a informare la gente bisogna essere informata. Abbiamo cominciato a fare delle assemblee. E abbiamo visto che a queste assemblee arrivavano 200 persone. Poi abbiamo saputo, ma anche a Gemona hanno i loro coordinatori, hanno cominciato a prendere dei contatti, ma anche di qua, di là, abbiamo scoperto che insomma era una metodologia, direi spontanea, ma diffusa sul territorio. Qui non si parla più soltanto di ricostruzione, ma bisogna rinascere. All'inizio, per i terremotati, ci sono soltanto alloggi di fortuna, tende, roulotte prefabbricati. È una vita possibile ma piena di disagi, ma anche di un nuovo senso di comunità. C'è stato un grande moto di solidarietà proprio tra la gente, moto popolare, che poi man mano che la ricostruzione avanzava è scemato, perché ognuno era, come dire, preso dai suoi problemi, che non erano pochi. La gente comunque credo che dopo una prima fase di apertura al sociale, ai contatti con i vicini, si è chiusa in se stessa, molto in se stessa, si è chiusa nel suo mondo, quasi a voler vivere in proprio il dramma, il dolore, la sofferenza del terremoto. E forse l'unica via d'uscita da quella tragedia personale e collettiva è riavere una casa propria, una casa vera. Passata l'emergenza, tutti gli sforzi si indirizzano verso la ricostruzione. E allora le città e i paesi hanno ricominciato a vivere. La gente ha bisogno di punti di riferimento importanti. Abbandonare dove storicamente si è cresciuti, si è vissuti, dove c'è un fatto trascendentale di appartenenza con la terra, con la natura, con l'aria, con il cielo. Dovete sapere che a certi livelli di altezza cambia pure. Qui da noi a 870 metri a Sant'Angelo Lombardi, quando è azzurro è un azzurro, un topazio meraviglioso, molto bello. Io non mi muovo dal mio paese, perché io devo rimanere qui dove sono nata. Abbiamo i nostri ricordi, abbiamo i nostri morti e poi le nostre amicizie, le nostre montagne, che per noi vedere le montagne è tutto. Ecco lo slogan dov'era com'era, che ovviamente sembra illogico o eccessivo, ma era un ordine, un criterio di fondo, antropologico-culturale. Cioè noi eravamo molto preoccupati dell'identità di questa gente. Se tutto questo non c'è è una catastrofe. I messinesi superstiti dissero: qui siamo nati, qui sono morti i nostri morti e qui moriremo anche noi. E se ci porterete via con la forza, noi torneremo qui. La prima cosa che ha fatto gli operai non a ricostruire le proprie case, ma a ricostruire le fabbriche. Già il giorno dopo siamo venuti qui e c'era già qualche operaio che passava e a vedere la fabbrica. Cioè, loro hanno la loro casa distrutta, ma comunque vengono lo stesso a vedere se si può ricominciare a lavorare. Perché qui si sa cosa vuol dire, se non hai il posto di lavoro, che cavolo, come campi, devi andare in emigrazione. Già da domani mattina si faranno i primi turni così per pulire qualcosa e cominceremo a lavorare all'aperto, la produzione dovrà ricominciare subito. La città in meno di 10 anni è in piedi. Il messinese ce l'aveva fatto altre volte. Il messinese è parente stretto, come tutti gli uomini di mare, come tutte le città di mare, dell'infortunio. E di questa tempra l'uomo delle due sponde. Per molti il terremoto è un'esperienza lontana, un brutto ricordo con cui convivere nella speranza che non si verifichi più. Per altri è una realtà che non passa mai. Per gli scienziati rimane un avvenimento misterioso e imprevedibile. Per lo Stato rimane una delle sfide più grandi in termini di soccorso, aiuto e interventi per la ricostruzione. È indubbio che il terremoto è un fenomeno puramente geologico che si trasforma in un'esperienza umana, civile e politica. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.